e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara la mia Nicoletta, eccoci ritrovate in diretta. Ho fatto anche rima stamattina. È facile con Nicoletta, esatto. Vabbè, mica tanto. No. Sì, diretta Nicoletta, sì. Allora, il paese discute di elezioni, di legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo del relatore Emanuele Fiano sulla legge elettorale. Appunto, qualche ascoltatore dirà: no, non cominciate a parlarne pure voi. Io, peraltro, stamattina ho provato a mettermi sui giornali con un po' più attenzione del solito su queste pagine. Devo dire che capirne le dinamiche è davvero complicato. Comunque, alle 12 il provvedimento approda in aula e sembra esserci già una data per questo appuntamento elettorale. Qualcuno parla del 24 settembre. Allora, io te l'ho già detto, non ho intenzione di candidarmi insieme a te perché non sono sicura di superare la soglia del 5%. Allora, siamo a posto, possiamo dormire sì. Sonni tranquilli. Ti devo dire, ero preoccupata. Dicevo, sì, Dio mio, no, Deborah, la campagna dove elettorale, mi porterà? La campagna invece elettorale tutta l'estate. Senza andiamo le solo a Torino, ma per giovedì. Scherzi a parte, noi non entriamo assolutamente in politica, però di elezioni un po' parlerò, Nicoletta, stamattina, perché questo weekend, come sapete, ci sono le amministrative, ci sono tanti cittadini che per ragioni di cuore, anzi direi di impegno civico e di partecipazione, ma anche di denari, si arrotonda un po'. In questi casi sono impegnati ai seggi. Allora, ricordo alcune delle città in cui si vota, ci sono alcuni capoluoghi di regione, Catanzaro, Genova, L'Aquila, Palermo e altre città, Alessandria, Asti, che a noi piacciono molto, dove siamo andate anche di recente, e poi ci sono Padova, Parma, Gorizia. In apertura ci chiederemo come comportarsi nel caso di un impegno al seggio elettorale con il proprio datore di lavoro. Nella seconda parte, per quello che riguarda i denari, faremo invece il punto sulle vicende Monte dei Paschi di Siena, cosa succederà nelle prossime settimane per azionisti e obbligazionisti di questa banca, per cui Bruxelles ha dato il via libera al piano di ricapitalizzazione precauzionale. Per tutti questi temi vi aspetto all'800 24 00 24, ma non solo per questi. Certo, il numero verde vale anche per la seconda parte di Cuore Denari, in cui torneremo ad occuparci di salute al maschile. Parleremo di una campagna che è appena partita, che invita tutti gli uomini a controllarsi per diventare, come diciamo sempre, soggetti attivi della propria prevenzione. Poi andremo a Chicago, ci sono delle novità molto interessanti che riguardano la cura del tumore alla prostata. Quindi, cari ascoltatori, 800 24 00 24 per tutte le vostre domande, ma il numero vale anche per le nostre ascoltatrici che vogliono condividere con noi dubbi che riguardano il loro partner, i figli, gli amici. Insomma, spesso abbiamo l'impressione che gli uomini, e le ricerche lo dimostrano, fanno fatica a parlare della loro salute e allora mandano avanti le loro compagne, quindi fatevi avanti. Facciamoci avanti anche con i mercati. Oggi abbiamo un quadro negativo a Parigi e Francoforte. Francoforte riprende le contrattazioni dopo la festività di ieri e insieme a Parigi appunto sono in calo di circa mezzo punto queste due piazze. Londra perde un po' meno, meno 0,24. Ieri l'abbiamo ribattezzata la grande osservata speciale di questi giorni dopo i nuovi attentati del weekend. Milano, che perdeva in avvio più di mezzo punto percentuale, adesso risale un po' e perde lo 0,2%. C'è molta attenzione su Milano perché si ritorna a parlare appunto delle questioni elettorali, come dicevamo prima, e questa circostanza, la prospettiva di elezioni anticipate, ha messo un po' in uno stato di nervosismo molti grandi investitori internazionali, perché c'è il più grande fondo obbligazionario al mondo, PIMCO, che ha fatto sapere nelle ultime ore di si sta ridimensionando la sua presenza sui titoli di Stato italiani, e questo ha suscitato ieri molta preoccupazione. Non ci sono stati effetti particolari sullo spread, ma di fatto si guarda ai movimenti appunto di questo grande operatore finanziario. Stamattina i titoli che salgono di più, Recordati recupera dopo i cali di ieri, più un punto, Eni più 0,9, A2A più 0,7, Enel più 0,5. In ribasso invece abbiamo ancora tutti o gran parte dei titoli del settore bancario. Il peggiore è il Banco BPM, che perde un punto e mezzo, insieme a Leonardo Finmeccanica e Yux Net-a-Porter. Ma se i mercati guardano con attenzione alle possibili elezioni politiche anticipate in Italia e alle elezioni inglesi di giovedì, non possiamo dimenticarci che questa è anche la settimana delle elezioni amministrative in Italia. Urne aperte domenica 11 giugno per le amministrative 2017. I comuni interessati al voto sono 1005, non 1500 ma 1005. I cittadini chiamati al voto sono 9.208.639. In apertura di trasmissione pensiamo a tutti coloro che in queste occasioni occasioni sono impegnati nei seggi del proprio comune nei diversi ruoli che le operazioni elettorali richiedono, un impegno che molti intraprendono da giovani. Tu pensa, Nicoletta, che io la mia prima partecipazione ad un seggio elettorale l'ho fatta come scrutatore e il giorno in cui ho compiuto i miei 18 anni, l'8 giugno del, aspetta fammi pensare, 69, 79, 87, 8 giugno 1987. Così abbiamo ricordato che giugno è il mese anche dei nostri compleanni. Esatto, brava. L'8 giugno saremo a Torino e il 17 festeggerò io. Come si disciplina però questo impegno al seggio elettorale in relazione al proprio posto di lavoro, no? Perché magari uno è momentaneamente disoccupato, uno studente e lo fa con tranquillità, ma se qualcuno deve prendersi un impegno dal lavoro, allora in questi casi le cose sono un pochino più complicate. Ci aiuta a capirci qualcosa in più Mario Cassaro, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie, grazie dottor Cassaro. La Fondazione ha pubblicato proprio nelle ultime ore una guida dedicata a questo argomento con tutte le indicazioni per i datori di lavoro e i lavoratori. Mi ha molto incuriosito questa circostanza, dottor Cassaro. Come mai avete avuto così avete ritenuto ci fosse la necessità di pubblicare questo vademecum? Ma la Fondazione non è nuova a queste iniziative, anche perché riteniamo, come avete giustamente sottolineato, che ci sono oltre 1000 comuni e oltre 9 milioni di cittadini chiamati alle urne. Pertanto non è sempre facile districarsi tra gli impegni lavorativi e gli impegni extra lavorativi, soprattutto come quello elettorale. E riteniamo che sia quanto mai necessario fornire alcune delucidazioni ai lavoratori ma anche ai datori di lavoro. Certo, anche se si vota appunto nel weekend, in realtà molte persone lavorano anche nei weekend e quindi devono magari chiedere dei permessi e quindi cerchiamo di capire come fare tutto correttamente. Gli operatori interessati sono, ricordiamo, scrutatori, presidente di seggio, segretari del seggio, ma ci sono anche i rappresentanti dei partiti di lista o di gruppo e i rappresentanti dei promotori di referendum quando si vota appunto per il referendum. Queste persone, dottor Cassaro, hanno sempre diritto ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa oppure devono avere un permesso dal proprio datore di lavoro, quindi devono chiederlo e farselo rilasciare anche fisicamente, intendo? Ma guardi, noi parliamo di permessi, ma in realtà non è una vera e propria concessione del datore di lavoro, perché il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali, quindi parliamo di fasi preparative, giornate di voto e successive giornate di scrutinio, spetta per legge a tutti i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Quindi il lavoratore in questi casi ha un diritto di assentarsi, ma anche l'obbligo, perché lo prevede il testo unico delle leggi elettorali, vale a dire il DPR 361 del 57, che stabilisce che questi soggetti che fanno parte delle liste, scrutatori, segretari, presidenti, eccetera, quelli che lei ha citato, hanno l'obbligo di accettare l'incarico. Quindi in capo a questi soggetti c'è un obbligo diritto, se vogliamo chiamarlo certo, in tal modo, sia il diritto di assentarsi dal posto di lavoro e l'obbligo di accettare l'incarico per certo, il corretto funzionamento e la garanzia della funzionalità delle procedure elettorali. Se si viene chiamati a gestire un impegno di questo tipo come scrutatore, segretario di un seggio, eccetera, la persona interessata può rifiutare oppure ha l'obbligo di andare, dottor Cassaro? Per quanto io ne sappia, la legge elettorale prevede delle sanzioni addirittura per chi senza un giustificato motivo rifiuti l'incarico o addirittura in capo a chi non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio. No, quindi tanto per capire che ovviamente tanto per dire che se è il datore di lavoro che in qualche maniera ti dice no, guarda, non ti do il permesso di andare, in realtà non è possibile appunto che il datore di lavoro si metta di traverso. Beh no, dicevo, non è una vera e propria concessione, certo, è un permesso ed è un diritto del lavoratore sacrosanto. L'unico punto da tenere in considerazione in questi casi è che a favore del datore di lavoro vi è tutta una documentazione comprovante la chiamata del lavoratore e l'espletamento delle funzioni elettorali nel seggio. Allora, per tutti coloro che vogliono saperne qualcosa in più, che magari non sono stati chiamati in questa circostanza per le amministrative di domenica, ma magari vengono chiamati per le elezioni politiche anticipate di settembre, c'è questo vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Immagino che la si possa trovare sul sito. In ogni caso la metteremo noi sul nostro profilo Facebook, sulle pagine di Cuore e Denari. Dottor Cassaro, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. Intanto ti dico che cosa Ugo c'è? Suggerisce Deborah ministro delle finanze, sì, Nicoletta certo. Sanità. Ma ovvio, naturalmente. Andiamo. Perché non ci abbiamo ancora pensato. Grazie Ugo. A tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Cuore e Denari. In effetti lui è l'uomo per noi e anche per voi che ci state ascoltando da casa. È tornato a trovarci il professor Andrea Saloni, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano e responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore e Denari. Ciao Andrea, bentornato. Buongiorno a tutti. Sei emozionato? Sono un po' emozionato, hai peraltro ragione. Essendo un po' distante solo telefonicamente devo dirvi che molto mi mancate. Va bene, così ci piaci, così ci certo. piace. La dichiarazione d'amore quotidiana per noi. Certo, ci vuole, fa bene. Vuole allora, mettiamoci però subito a lavorare perché sì. ci sono un sacco di novità che riguardano la salute al maschile, di conseguenza abbiamo pensato che fosse utile e importante parlarne con i nostri amici. Tra l'altro parleremo anche di un bel progetto, di una campagna Controllati della Società Italiana di Urologia, che è arrivata alla sua seconda edizione e ha proprio l'obiettivo, un po' come quello di Salute Uomo, di insegnare agli uomini a farsi controllare, l'importanza della prevenzione, e dicendo agli uomini: prendetevi cura di voi, non esitate, parlate, occupatevi della vostra salute generale, della vostra salute sessuale e dintorni. Quindi Andrea, i dati sono ben chiari, 8 su 10 uomini non sono mai andati dall'urologo e un buon 30% di fronte al sospetto di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile preferisce parlarne con un amico piuttosto che andare dal medico, quindi abbiamo da lavorare. Tanto, soprattutto se pensiamo che almeno negli ultimi 20 anni, di tentativi di promozione della salute al maschile se ne sono fatti davvero tanti, ce ne sono stati di meglio fatti, di peggio fatti, ma quantomeno se ne sono fatti tanti, e il fatto che ancora il 30% di fronte a un sospetto così palese come quello di aver contratto una malattia sessualmente trasmessa, che se vogliamo non vuol dire solo HIV e quindi AIDS, perché nell'immaginario comune c'è quello, ma tutte le malattie sessualmente trasmesse sono anche molto, molto più banali e spesso molto più disturbanti, se questi uomini preferiscono parlarne con un amico piuttosto che rivolgersi al proprio medico curante, ahimè, di lavoro ce n'è davvero ancora tanto da fare. Allora, ma voi avete un amico, il professor Andrea Saloni, Andrea per gli amici, e quindi chiamate 800 24 00 24. Andrea, ho aperto la nostra puntata insieme a Deborah sottolineando che c'erano delle novità in arrivo anche sul trattamento del tumore alla prostata, e subito abbiamo, appena pronunciamo questa parola, sì. addirittura un signore a Trento, ti ricordi? È venuto nel nostro, esatto. come dice, tanti complimenti, sì, esatto. Anche perché parlate di prostata. Esatto. Va anche bene. Perché parlate di prostata. Allora, infatti, abbiamo Giulio dalla provincia di Pistoia. Questa è la parola magica. Giulio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io chiamo appunto perché ho sentito parlare del tumore alla prostata. Ecco. Allora, io ho 52 anni e sono già 12 anni che puntualmente nel mese di giugno faccio l'esame del PSA. Bravo. Bravo. Una mattina, proprio nella trasmissione di Milan, però, ho sentito che lo stesso medico, se non ricordo male, comunque chiedo chiarimenti, che ha elaborato questo discorso del PSA. Sì, ha scritto un libro. Sì, andava praticamente smentendo a questo punto la validità dell'esame stesso per trovare eventualmente il tumore. Ecco, io volevo un chiarimento su questo discorso qui. A cui, grazie, grazie. Dell'utilità del PSA. Esame. Grazie Giulio, ricordo a Giulio che abbiamo fatto proprio una puntata, ad hoc su questo sì. Libro, però Andrea, ricapitoliamo. Certo, Giulio ha ragione, chi ha inventato e ha per primo applicato questo tipo di marcatore biologico, che ricordo essere l'unico biomarcatore di cui noi maschietti godiamo ai fini di prevenzione della salute maschile appunto, diceva in modo un po' subdolo, da un punto di vista pratico l'utilità di questo marcatore è stata poi resa non così elevata da tutto ciò che alla scoperta è seguito. In realtà è fondamentale pensare che il marcatore è un marcatore organo specifico, cioè? In termini medici significa viene prodotto esclusivamente dalla prostata. Non è malattia specifica e quindi non solo i pazienti che abbiano un tumore alla prostata hanno del PSA circolante, ma è certo vero che il monitoraggio del PSA a partire da una determinata età, e Giulio ci ha raccontato che ha eseguito questo esame per 12 anni consecutivamente, il che ha veramente monitorato lo stato di salute prostatica, ecco, combinare l'esecuzione del marcatore con lo stato di salute generale, l'età del paziente e le condizioni della prostata è fondamentale. Però oggi si è spostato in un modo molto importante dal punto di vista cronologico il valore del PSA, perché si è propensi a suggerire di eseguire un test del PSA sempre più vicino ai 40-45 anni, perché quel valore ci permetterà di ottenere quella che tante volte abbiamo chiamato come finestra di opportunità, cioè di capire che cosa nei successivi 25-30 anni quell'uomo andrà incontro a subire ovviamente in termini di salute prostatica. Per cui non è un valore da prendersi in assoluto, oggi i limiti che venivano considerati normali un tempo lo sono molto meno e vanno sempre personalizzati all'individuo che abbiamo davanti, ma il valore di questo biomarcatore rimane in assoluto importante. Quindi bisogna eseguire questo esame, che è assolutamente non invasivo, controllare il PSA, ma con queste indicazioni. Esatto. Due indicazioni quindi agli ascoltatori che magari hanno acceso. Allora, ora. È fondamentale sapere che attorno ai 40-45 anni il primo monitoraggio del PSA è molto utile, ed è molto utile sapere che un valore di PSA sotto un nanogrammo millilitro, questa è l'unità di misura che viene usualmente scelta per il PSA, è espressione di stato di salute buona, il che vuol dire che nei successivi 25 anni circa la probabilità che questi uomini abbiano un tumore prostatico aggressivo, quindi che metta loro a repentaglio, è molto molto bassa. Un uomo che tra i 40 e i 45 anni abbia un valore di PSA superiore all'1 è un uomo che merita di essere controllato nel tempo. Se questo valore del PSA non venisse controllato, cioè se non si eseguisse un semplice esame del sangue, la probabilità che quell'uomo venga oggettivamente studiato nel tempo, ahimè, diminuisce. Allora, un ascoltatore scrive: pochi fanno l'esame perché è invasivo? Direi di no. No, è un esame del sangue. È un semplice esame del sangue, molto facile, è passato dal Sistema Sanitario Nazionale e da un punto di vista pratico è molto utile che venga eseguito non già quando non è più necessario dal punto di vista dell'età dell'individuo, ma sempre più in termini preventivi, e questo è un dato rilevante, preventivo, in soggetti di età tra i 40 e i 45 anni. Certamente, e la SIU, la Società Italiana di Urologia, ben lo dice, è molto utile comunque a partire dai 50 anni in tutti i soggetti, ma se volessimo ancora più sottolineare, ad esempio, quegli uomini che abbiano una familiarità per tumori prostatici. E noi quindi torniamo lì, torniamo qui con voi dopo il GR insieme ad Andrea Salonia. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Hai più di 40 anni? Non hai ancora fatto un controllo urologico? A giugno prenota la tua visita gratuita con uno dei medici della Società Italiana di Urologia. Ne abbiamo parlato e continuiamo a parlare di uomini, di salute uomo. In linea con noi è tornata a trovarci Andrea Salonia. Quella che abbiamo appena ascoltato è la clip realizzata dalla Società Italiana di Urologia in occasione di questa campagna che si chiama Controllati, una campagna che è arrivata con successo alla sua seconda edizione. L'iniziativa è partita giovedì 1 giugno, durerà sino a metà luglio e darà la possibilità di prenotare visite, consulti gratuiti, non solo attraverso il sito ma anche attraverso un'app presente nei principali store digitali. Ma intanto 800 24 00 24, se volete intervenire per parlare con noi. In linea abbiamo Andrea Salonia, pronto a dare delle indicazioni, Andrea, ecco, e a qua cercare di così buttare giù quel muro che molti uomini costruiscono sempre più alto e che dimostra una certa fatica ad occuparsi della loro salute, della salute in generale, in modo particolare di quella sessuale. L'urologo è un medico poco frequentato. Arrivano tanti messaggi via WhatsApp di uomini che dicono: l'esame della prostata è un esame molto invasivo, è umiliante, mi scrive addirittura un ascoltatore, ditelo perché nessuno lo fa. Andrea, in realtà, allora, in corretta, noi l'abbiamo anche detta questa cosa e siamo stati un po' antesignani, come sappiamo, in questo, ma in realtà l'esame di per sé è un esame che parte da un colloquio. Oggi purtroppo molti uomini fanno il colloquio con quello che si chiama dottor Google, che ci permette talvolta di essere contattati dal paziente, ma più delle volte il paziente si rivolge direttamente alla rete senza andare da uno specialista o anche dal proprio medico curante. L'esame è tutt'altro che invasivo. Se per invasività si intende quella che, doganiamo un altro termine, è l'esplorazione rettale, cioè lo studio col dito della prostata, certo non è piacevole. Ma neanche la visita ginecologica, voglio dire. Uno dice lì. Noi però abbiamo un retaggio che, ahimè, dal punto di vista socioculturale ci lascia ancora nella grossa difficoltà di essere violati, e questo è purtroppo quello su cui bisogna lavorare. E secondo me la campagna Controllati ha enorme valore in questo senso, perché arriva direttamente, anche a titolo gratuito, e arriva direttamente all'uomo che ne ha bisogno. Certo. Andrea, noi andiamo a Chicago perché abbiamo anticipato, ci sono tante novità, e poi così chiudiamo il capitolo prostata, ma parleremo anche di dieta, per così in qualche modo migliora la qualità e il numero degli spermatozoi. Restate con noi. Ma intanto, proprio all'ASCO, mi è piaciuto, Daniela Minerva l'ha definita la vetrina mondiale di ciò che sarà, è un meeting annuale degli oncologi a cui partecipano 38.000 medici, ricercatori, vengono presentate tantissime ricerche, più di 2.000, più altre raccontate online, cioè è veramente un laboratorio, di più di un laboratorio. E in occasione di questo convegno è stata presentata una cura del tumore alla prostata, di un tumore che possiamo dire presenta un tumore particolare, quando presenta già metastasi alla diagnosi. Sì. E questa cura accende molte speranze. Ce la racconti? Sì, è una cura. Partiamo da due parole sull'ASCO. L'ASCO è il congresso annuale degli oncologi medici americani, American Society of Clinical Oncology. In realtà raccoglie tutti quelli che fanno scienza e terapia attorno alla patologia oncologica in generale, non è solo dedicata alla patologia urologica, ma lì gli urologi hanno grossa importanza. Quest'anno è stato presentato un lavoro interessantissimo, il cui primo nome è Karim Fizazi, che è un oncologo strepitoso parigino, e mi fa molto piacere sottolineare europeo, il quale presenta i dati di una combinazione molto innovativa, cioè quei malati, per fortuna non così tanti come sono quelli che fanno prevenzione, che arrivano già con metastasi al momento della diagnosi e non siano mai stati trattati, possono giovare di una combinazione precoce tra quelli che si chiamano antiandrogeni, che sono la terapia usuale per questo tipo di malattie, cioè quelli che abbattono il livello di testosterone circolante, e combinano questo con questo farmaco che si chiama abiraterone, che fa sempre parte delle molecole che riducono gli androgeni circolanti. Ma qual è il vantaggio di un utilizzo precoce? Che hanno effetti simili per beneficio alla chemioterapia, riducendone di molto gli effetti collaterali. Pensa, Nicoletta, che i risultati di questo studio dimostrerebbero come rispetto a un trattamento standard si possa diminuire il rischio di morte del 38%, che è un valore eccelso. E in più la combinazione precoce tende a raddoppiare quello che è il tempo medio che intercorre prima che la malattia progredisca, passando da 15 a 33 mesi. Quindi, altro risultato eccellente. Questa è un'ottima notizia, perché in questo modo si potrà trattare la malattia, vivere più a lungo e ridurre anche l'impatto di effetti collaterali, che questo è molto importante. Sì. È veramente un risultato da laboratorio importante, e il tuo sottolineare dell'ASCO come laboratorio della scienza, a mio avviso, è più che corretto. Allora andiamo a Marco, che ci chiama da Modena. Buongiorno Marco, benvenuto. Sì, buongiorno a lei, buongiorno al suo ospite. Vado per flash, faccio veloce così, penso che siano domande abbastanza interessanti, almeno mi sembra di non averle sentite. Io purtroppo anch'io soffro, dopo passati 50 ho avuto dei problemi, sono andato a fare la visita e mi ha riscontrato una prostatite. Il problema è questo, che questa una volta curata non è che dopo non torni più, lei si ripresenta, quindi chiedevo al dottore che con causa c'è tra prostatite e un brutto una malattia che possa degenerare certo. In futuro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, flash, c'è chi dice che a mangiare frutta secca non vada bene, però io ho letto anche che, ad esempio, i semi di zucca aiutano. La terza cosa, velocemente, rapporto psiche e prostatite, prostata ingrossata. C'è qualche studio? Marco, lui è bravo. Io le faccio arrivare un libro, perché Marco è stato troppo carino. Ha centrato tre domande magnifiche e lo inviteremo sempre con Salute Uomo. Andiamo per ordine. Prostatite, questo ite finale. Nicoletta, proprio a rispondere alle tre, almeno unendo la prima e l'ultima delle tre. La prostatite è una infiammazione della prostata, non ha nulla a che fare dal punto di vista patologico con il tumore. C'è stato per lungo tempo un insieme di studi che hanno cercato di correlare l'infiammazione allo sviluppo del tumore. Ad oggi non ci sono ancora dati di certezza in questo senso, ma la probabilità che un uomo che ha una prostatite da giovane sviluppi fondamentalmente un tumore in età più avanzata non è ad oggi comprovata. Da un punto di vista pratico, ha proprio ragione il nostro amico dicendo che esiste una correlazione tra prostatite e psiche. Molto spesso il disturbo prostatitico è così marcato e, ahimè, poco curabile, per cui è giusta anche l'osservazione che talvolta ritorni, da determinare un grande sconforto, e dal punto di vista psicologico molto spesso gli uomini che soffrono di prostatite sono anche francamente prostrati. Questo è un gioco di parole, ma non lo è poi così tanto, perché i disturbi legati alla prostatite e all'infiammazione sono francamente disagevoli. Altra cosa è quella relativa alla dieta. Quello che noi sappiamo è che una dieta che sia povera di cibi grassi, di cibi fritti, di cibi piccanti, di alcolici, talvolta di cioccolato, piuttosto che di alcune latticini, tende a ridurre il rischio di persistenza dell'infiammazione. Non ci sono dati così forti sull'utilizzo, ad esempio, della frutta secca. E i semi di zucca, invece, che Marco diceva, sembrano buoni. I semi di zucca sono anche qui. Ci sono delle sporadiche ricerche, noi li chiamiamo sporadici report, dedicati all'utilizzo di questo piuttosto che quest'altro componente. Per tanto tempo, ad esempio, si è parlato solo del pomodoro piuttosto che solo della carne abbrustolita. Ahimè, quello che si evince oggi è che è il regime dietetico a proteggere o essere lesivo. Se posso dire, il vantaggio legato alla dieta mediterranea nel suo insieme, oltre ad essere di grande beneficio sullo stato di salute tutto, è anche a livello degli organi genitali, certo, quindi compreso una ghiandola come la prostata. Tra l'altro ho letto proprio che al vostro congresso nazionale avete presentato uno studio che sottolinea che la dieta mediterranea aumenta dal 72 al 95% la quota di spermatozoi sani e anche di elevata qualità, quindi tanti e buoni. È proprio vero. Questo, il congresso della Società Italiana di Andrologia, che si è concluso la settimana scorsa, è stato un grande successo di scienza e di cultura. Perché? Perché molti sono stati i report, ancora una volta, dedicati allo stato di salute dell'uomo, perché l'andrologia si occupa di quello. Questo dato relativo alla dieta mediterranea si inserisce in un contesto di risultati scientifici piuttosto importanti che dimostrano come le popolazioni che utilizzino una dieta che è equilibrata e ricca allo stesso tempo e non, qui è molto bello dire, monotematica, come potrebbe essere la dieta di altre nazioni che fanno prevalentemente uso di cibi più grassi piuttosto che, ecco, assicura allo stato di salute generale dell'individuo un beneficio in termini riproduttivi. Per cui sembra che una dieta di questo genere, ricca ed equilibrata in termini di pesci, carni bianche, carne rosse, legumi piuttosto che uova, piuttosto che vegetali, comprendendo frutta e verdura, possa oggettivamente migliorare le chance riproduttive, migliorando gli spermatozoi da un lato e quello che si chiama rate di bambini in culla, cioè l'effettivo numero di bimbi che nascano. E comparando le coppie fertili rispetto alle coppie infertili, il dato che si evince è proprio quello che una dieta mediterranea più completa ed equilibrata faciliti sostanzialmente l'outcome riproduttivo, cioè il fatto di arrivare ad avere figli. Allora Andrea, noi come sempre tra poco apriamo la nostra la rubrica dentro la rubrica piccolo uomo. E il piccolo uomo perché vogliamo abbiamo dato voce questa volta ad una mamma. Ma voglio ricordare agli amici che ci stanno ascoltando che la Società Italiana di Urologia, ne abbiamo parlato perché ha organizzato questa campagna, ha così scritto un decalogo per la prevenzione in ambito urologico. Naturalmente lo linkiamo nelle pagine di Salute Uomo. Sono delle raccomandazioni e delle attenzioni di cui abbiamo parlato tante volte insieme a voi, insieme ad Andrea e Deborah. Bere con regolarità una quantità d'acqua adeguata, seguire, come diceva Andrea, una corretta informazione, controllare anche la normale conformazione e lo sviluppo genitale dell'apparato genitale del bambino e anche consigli sulla vita di coppia, ricordando che l'infertilità dipende nel 50% dei casi dal maschio. Altri consigli, perché è un decalogo, ve ne ho letti solamente 5, potete naturalmente andare a leggerli sulle pagine di Cuore Denari, ma intanto andiamo a sentire la nostra rubrica. Gentili amici di Salute Uomo, sarò breve. Mio figlio ha spesso dolore al testicolo. Meglio, lui dice che gli fa male la palla sinistra, anche solo a sfiorarla, ma che si guarda e non vede proprio nulla che non vada. La palla sinistra è sempre stata un poco più in basso della destra e lì è rimasta e non ha ricevuto colpi. Solo per dirvi che Luca non gioca a calcio come tutti i suoi coetanei, perché suona il violino e non è che muovendo l'archetto sulle corde si prendano calcioni. Qualche rimprovero dal maestro, quelli sì, magari. Ora sono preoccupata davvero perché Sandro, il figlio della mia vicina, il testicolo se l'è perso per strada. Aveva avuto un dolore molto forte, così muovendosi un giorno dello scorso giugno. Non si era fatto visitare subito e quando si sono decise ad andare al pronto soccorso gli hanno detto che il testicolo si era strozzato. Cosa mi consigliate di fare? Buona giornata. Marina. Allora, Marina, una mamma preoccupata, ha fatto già una bella cosa. Ha scritto a Cuore Denari e Andrea Salogni è pronto per rispondere. Andrea, abbiamo una manciatina di minuti per dare delle indicazioni prima di andare ai mercati. Sì, ringraziamo la mamma perché non sempre capita, ma spesso abbiamo visto come le signore, le compagne o le mamme abbiano grande rilevanza nella salute e nella prevenzione del maschietto. Allora, quello che la mamma qui ci dice è di duplice importanza. La prima, i dolori testicolari dei ragazzi non vanno mai trascurati. Non vanno mai trascurati significa che nel momento in cui dovesse comparire un dolore, soprattutto se è importante, come quello della figliola della vicina di casa di questa signora, bisogna assolutamente rivolgersi in pronto soccorso. Questo vale soprattutto per quei ragazzi tra i 14 e i 20 anni, ma vale anche dopo, ma soprattutto in quella fascia adolescenziale, dove esiste un rischio di quella che si chiama torsione del funicolo, cioè il fatto che il testicolo ruoti sul proprio asse e che i vasi che portano il sangue, ma soprattutto ancora di più quelli che lo portano via, non riescano più a avere il loro ruolo, cioè quello di far defluire il sangue stesso. Questo porta ad una sofferenza testicolare che, se si riesce a detorcere, cioè a togliere la strozzatura nell'arco delle prime ore, porta ad avere un testicolo normo funzionante e poterlo lasciare. Ahimè, il figliolo della vicina di casa di Marisa in questo caso era arrivato troppo tardi in pronto soccorso e il testicolo è stato rimosso. Però qui il messaggio reale è: non dobbiamo vergognarci di dire di avere un problema, un dolore al testicolo, e questo è far prevenzione. E bisogna sempre che, laddove ci siano dolori, piccoli o grandi che siano, ci si rivolga quantomeno al proprio medico curante e ancor più allo specialista. Non tutti i dolori al testicolo equivalgono ad una torsione. Mi viene da pensare, ad esempio, che ci siano dolori tipici da, ad esempio, infiammazioni dell'epididimo, che si chiamano epididimite, che spesso compaiono nei ragazzi e anche negli uomini di età un pochino più avanzata, che possono essere ben trattati, se adeguatamente diagnosticati, ad esempio con una terapia antibiotica o una terapia antinfiammatoria. Spesso alcune pratiche sportive, e mi fa piacere che Marisa qui abbia ricordato che suo figlio non gioca a calcio, si prestano di più ad esempio a traumi a livello del testicolo. Attenzione, mai trascurare un calcione ricevuto giocando a calcio. Perché calcione. Esatto, perché questo può succedere, e ahimè i danni si contano poi in sala operatoria, quando a traumi testicolari con rotture, le famose fratture dell'osso, talvolta si verificano anche altri organi. Cosa fare quindi? Si gioca a calcio, si prende un calcione? Bisogna che si controlli. Vi vediamo accasciati, perché esatto. E lì capiamo che il calcio ha colpito. Però talvolta non si accasciano le persone, perché tendono a continuare a giocare o a dare poca importanza. Ahimè, dare sempre importanza ai propri testicoli. E secondo me la campagna Controllati della SIU avrà anche questa specificità, cioè quella di metterci di fronte a cose che possono sembrare di totale banalità, ma che banali non sono affatto. Allora chiudiamo con, prima di dare la linea ai mercati, che poi la linea ce l'abbiamo qua perché i mercati sono la Deborah, nostra Deborah. Certo. Paolo, buongiorno da Treviso. Paolo, buongiorno a lei. Era soltanto per dire una cosa, la visita è senz'altro non un'esperienza piacevole, però l'esperienza piacevole comincia immediatamente dopo, quando per un anno si sta tranquilli fino alla prossima. Quindi sottoporsi al disagio di un controllo accurato mette tranquillità. Questa è una cosa che volevo sottolineare. Grazie. Facciamo Paolo. Un applauso a Paolo. La SIU, esatto, e la Società Italiana di Andrologia dovrebbero prendere Paolo, e soprattutto anche questa argomentazione di Paolo come claim, come bella messaggio, perché è proprio così, è quello che proviamo noi. Esattamente, stavo pensando la stessa cosa. Grazie Paolo. Grazie davvero. Andrea, noi ci risentiremo presto, intanto sì. Grazie anche da parte degli ascoltatori che ci scrivono, anche parlate del varicocele, parlate di infertilità, insomma gli argomenti sono tanti, perché quando poi gli uomini iniziano a parlare poi parlano. Esatto. Ecco, meno male. Perché mi viene salute uomo e anche la salute viene parlando, cerchiamo proprio di far diventare la salute un argomento di conversazione. Sì. Ecco, senza mai bravo, perché questo è importante. Io trovo che veramente le parole di Paolo siano importanti, perché il percepire di essere stati controllati, di poter stare sereni per l'anno successivo, a mio avviso è di grandissima importanza. Io l'ho imparato dalla mia mamma, banalmente, che ha sempre fatto i controlli alla mammella per il rischio legato appunto alla patologia tumorale, e io mi sono sempre sentito dire da mia madre: io sto più serena perché magari è poco probabile, ma mi sono fatta controllare. E questo, certo, secondo me è molto importante. Andrea, grazie, e noi ci sentiamo presto. Intanto noi andiamo subito. Andiamo ai mercati. I mercati con un minutino addirittura di anticipo per non sforare, e quindi possiamo poi procedere. Grazie. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. È un accordo politico sicuramente, ma è anche un accordo che si basa sulla chiarificazione di tutti i punti che riguardano gli aspetti del piano di ristrutturazione, gli aspetti di fabbisogno di capitale, la gestione delle sofferenze e così via. Lo Stato resterà nel capitale per la durata del piano di ristrutturazione, ma l'obiettivo, come io dissi quando introducemmo questo strumento, il meno possibile, in modo tale che le risorse possano tornare allo Stato e che quindi sarà completamente dimostrato che la banca può viaggiare con le sue gambe, in teoria anche meno di 5 anni. Era il ministro dell'economia Piercarlo Padoan giovedì scorso, 1 giugno, quando ha riferito dell'accordo raggiunto con la commissaria europea alla concorrenza Marete Vestager sul piano di riassetto di Banca Monte dei Paschi, che permette l'avvio della ricapitalizzazione precauzionale della banca in linea con le regole europee. Ricapitalizzazione precauzionale, parlava di uno strumento introdotto di recente il ministro Padoan con un provvedimento dello scorso dicembre. Allora, un accordo importante, un accordo condizionato al fatto che la Banca Centrale Europea dichiari che Monte dei Paschi è solvente, soddisfi i requisiti di capitale. Per ottenere questo via libera anche dalla BCE, Monte dei Paschi dovrà sopportare una profonda ristrutturazione che includerà la pulizia del bilancio dai cosiddetti non performing loans e crediti deteriorati. Si parla di qualcosa come 26 miliardi appunto di euro, e in questo modo la banca potrà tornare a focalizzarsi sull'attività commerciale più tradizionale, prestiti al business italiano e il sostegno all'attività economica. Per questa ricapitalizzazione precauzionale lo Stato dovrà essere remunerato in misura sufficiente per l'iniezione appunto di capitale, mentre, e qua andiamo alle note che affronteremo questa mattina, azionisti e detentori di obbligazioni junior devono contribuire ai costi per limitare l'ammontare dei fondi che saranno invece a carico dei contribuenti. Questo è il punto che ci interessa capire in questo approfondimento di denari. Cosa succede ad azionisti e obbligazionisti di Monte dei Paschi? Quanti? Rifacciamo un punto. Ce ne sono in circolazione? Chi verrà risarcito, indennizzato? Con che modalità? 800 24 00 24, il numero verde a vostra totale disposizione per chiacchierare con noi. È tornato a trovarci Nicola Borsi, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ne ha scritto ampiamente anche proprio nelle pagine di sabato scorso dell'inserto del risparmio appunto del Sole 24 Ore, e già di questo tema avevamo detto delle cose molto interessanti settimana scorsa quando abbiamo seguito in diretta le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Naturalmente il mondo legale sta seguendo tanti risparmiatori che sono dei malcapitati protagonisti delle vicende dei Monte dei Paschi, direttamente o indirettamente. L'avvocato di Modena Letizia Vescovini, che salutiamo, buongiorno, è con noi questa mattina. Buongiorno. Allora, tra l'altro, prima di andare a capire cosa succederà per azionisti ed obbligazionisti, volevo anche soffermarmi per un attimo su un altro pezzo del Sole 24 Ore che è stato pubblicato sabato scorso, dove si ricorda quello che sarà a questo punto il percorso che Monte dei Paschi seguirà alla luce dell'accordo sulla ricapitalizzazione precauzionale raggiunto a Bruxelles. Perché volevo ritornare su questo pezzo? Perché altri pezzi di altri quotidiani, sempre nella giornata appunto di tra venerdì e sabato, parlavano di azionisti azzerati. Nicola, mi pare di capire invece dal pezzo del Sole che non sia esattamente così, perché non è detto che le azioni sospese dal 22 dicembre scorso possano tornare in negoziazione, certo a prezzi che magari non sono quelli delle aspettative degli azionisti piccoli. Noi soprattutto stamattina ci rivolgiamo a loro, però ecco, questo è un punto che ancora tra tutti quelli che vanno chiariti per e legati alla ricapitalizzazione del governo e dello Stato, appunto questo è un punto importante. Diciamo che la situazione è molto confusa, in questo momento non si riesce a capire molto, anche perché in tutta questa situazione mancano dei passaggi fondamentali. Almeno un paio di provvedimenti del governo. Esatto, ancora. Mancano un paio di provvedimenti del governo e mancano soprattutto gli accordi finali che arriveranno fra qualche settimana, forse di più. Qualcuno parla addirittura di 6 mesi. La verità è che in questa situazione ci sono coinvolti 150.000 piccoli azionisti che hanno sottoscritto a più riprese aumenti di capitale anche negli ultimi anni, sui quali tra l'altro poi parleremo, perché qui c'è una questione che riguarda il mis-selling non soltanto delle obbligazioni subordinate, ma probabilmente anche di questi aumenti di capitale. Adesso spiegheremo che cos'è il mis-selling, esatto, perché cioè parliamo vendita, proprio di vendita quasi fraudolenta. La vendita insomma, quasi fraudolenta, diciamo la vendita nella quale non sono state adempiute tutte le responsabilità dal punto di vista della trasparenza e dell'informativa precontrattuale. Ma poi c'è anche la questione che riguarda gli obbligazionisti, cioè quando si parla del rimborso agli obbligazionisti che sono stati vittime ancora una volta di questo mis-selling, cioè di questa vendita non corretta, parliamo soltanto degli obbligazionisti che hanno sottoscritto il famoso bond in scadenza del 2018 a partir tu da 2 miliardi e 160 milioni di euro, quello quanto per ricordare che era stato emesso nel 2008 al momento dell'acquisizione di Antonveneta con tagli da 1000 euro, quando ancora non esisteva nessuna direttiva comunitaria che riguardasse la risoluzione delle banche in crisi, non esisteva il burden sharing, non esisteva il bail-in, non c'erano tutte queste norme che sono diventate norme soltanto nel 2014, sono state recepite nel 2015 con un'efficacia retroattiva che io trovo una cosa veramente allucinante. Ma o forse riguardiamo anche gli altri investitori retail a cui negli anni sono stati piazzati anche tagli da 50.000 euro di bond per sempre subordinati per istituzionali, perché ci sono anche casi di questo genere. Noi abbiamo ricevuto la lettera di un giovane che si è trovato a subentrare per la improvvisa morte del padre col fratello nella posizione bancaria del padre in MPS, a cui fu fatto sottoscrivere senza nessun tipo di preparazione specifica da parte sua una tranche da 50.000 euro di un bond subordinato per istituzionali. Questa persona, che non aveva nessuna competenza, potrà accedere al meccanismo di rimborso oppure no? Certo. Questo ancora non si sa. Questo è tipicamente un caso di mis-selling, tanto per utilizzare parole difficili e tradurle in termini semplici invece. Allora, avvocato Vescovini, vengo a lei. Lei ha seguito tanti risparmiatori incappati invece nelle vicende di Banca Etruria, Ferrara, da Modena ha seguito in particolar modo gli obbligazionisti di queste due banche. Intanto in questo momento sul caso Monte dei Paschi sta seguendo lo stesso dei risparmiatori che ne sono in qualche maniera o ex azionisti, magari rientreranno presto in piena titolarità delle loro azioni, ma ancora non lo sappiamo, o obbligazionisti appunto di Banca Monte dei Paschi. Da quanto tempo peraltro le chiedono informazioni e come poter fare per rientrare in qualche maniera nella titolarità del denaro investito? Cosa ha fatto in questi mesi con loro? Come li ha seguiti e assistiti? Buongiorno. Allora, il problema Montepaschi sta interessando gli azionisti, gli obbligazionisti da un po' di tempo, perché il titolo per quanto riguarda l'azione ha subito negli anni un drastico ridimensionamento. Io li definisco gli azzerati sostanziali, perché pur in assenza di un provvedimento di azzeramento hanno visto la somma investita in azioni ridursi quasi all'1%. Per queste persone ho iniziato ad esaminare la congruenza, diciamo, di questi prodotti offerti loro con la loro effettiva situazione. e questo direi già da 2-3 anni, proprio perché questa perdita del valore degli investimenti in azioni era considerevole. Poi il problema invece delle obbligazioni subordinate si è iniziato a manifestare l'anno scorso. Questo perché molti dei soggetti che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate sono venuti a conoscenza di questo titolo solo dal ricevimento dell'estratto relativo alle cedole, dove veniva esplicitato il termine subordinato. Ho sotto mano gli ordini d'acquisto di queste obbligazioni, appunto quelle di cui parlavate voi, 2008-2018 per essere più semplice per gli ascoltatori, e tra le indicazioni riportate nella pagina dell'ordine d'acquisto di Montepaschi, proprio nel prospetto set minimo di informazioni, quello che ai fini della trasparenza dovrebbe consentire al cliente di capire cosa sta investendo, non c'è scritto da nessuna parte subordinata, se non nel codice strumento viene aggiunta una S semplice a BMP, quindi Banca Montepaschi S sarebbe forse per subordinata. Diversamente, su quel modulo d'ordine ci sono anche delle indicazioni fuorvianti, perché ad esempio nella parte gruppo strumento viene detto obbligazioni italiane e nel sottogruppo strumento si parla di ordinarie. Viene definito titolo complesso lo stato di liquidità viene dato come per certo. Quindi il problema di fondo è che molte persone che hanno questo titolo, questa obbligazione subordinata, non hanno mai saputo di averla in portafoglio, e quindi il problema della subordinazione si è iniziato a rappresentare per gli investitori solo quando è accaduto per le quattro banche, quando si è sentiti a parlare di obbligazioni subordinate che sono state azzerate, e da lì qualcuno ha iniziato a porsi delle domande. Però in tanti ancora oggi forse non sono a conoscenza del tipo di investimento che hanno in pancia. Sì, allora intanto speriamo che queste persone si responsabilizzino un po' e vadano, senza ovviamente colpevolizzarle in alcun modo, ma sicuramente quantomeno avere la curiosità di andare a fare un check-up del proprio portafoglio investito, questo lo devono a se stessi e alla propria famiglia. Detto ciò, le modalità con cui la banca ha distribuito questi prodotti mi pare assolutamente discutibile. E proprio a proposito di questo, Nicola, si sta facendo strada in qualche maniera anche la possibilità che questi obbligazionisti vengano indennizzati, risarciti, ristorati alla stregua degli obbligazionisti delle quattro banche risolte nel 2015? Anche qua non lo sappiamo, potrebbe esserci un nuovo passaggio con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi? Allora, le comunicazioni ufficiali che risalgono al 1 giugno dicono sostanzialmente questo: MPS compenserà i titolari retail, cioè i risparmiatori, di obbligazioni subordinate che sono state oggetto di mis-selling, cioè di vendita non corretta, convertendo quei titoli in azioni e comprando quelle azioni da questi investitori. MPS pagherà quegli obbligazionisti, cioè queste azioni di nuova emissione, diciamo, con dei più sicuri titoli senior con delle obbligazioni normali. Ora, il problema è un problema di vario tipo. Innanzitutto, se si applicassero gli stessi paletti che sono stati applicati agli obbligazionisti subordinati azzerati del 22 novembre 2015, cioè Etruria, Carife, Banca Marche, Carichieti, ci sarebbero dei paletti, ad esempio, di reddito o dei paletti di trasmissione di queste obbligazioni, se sono state cedute per successione, per atto fra vivi o altro. In più, questa esperienza, quella del 22 novembre 2015, ci insegna una cosa: è scaduto il termine del 31 maggio scorso, 7 giorni fa, sì, per i rimborsi, entro il quale si poteva chiedere l'indennizzo forfettario. Era stato anche prorogato questo, esatto, era stato prorogato per tutta una serie di interventi che sono stati fatti per cercare di allargare la platea delle persone coinvolte, ma nel frattempo il governo non ha mai emanato i decreti per poter accedere all'arbitrato presso l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Cosa significa? Significa che è stata proposta un'immagine nella quale il governo interveniva e metteva tutto a posto. Questo è stato detto dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del Tesoro e da altre autorità. In realtà questa immagine è un'immagine fuorviante, perché era stata prospettata una doppia strada, ma entro la scadenza del periodo per aderire alla prima non è stata data nessuna informazione sulla possibilità di aderire alla seconda. Quindi nessuno ha saputo quali erano le alternative reali per scegliere tra l'indennizzo forfettario Vabbè, diciamo che è un terreno sul quale si muoveranno con grande interesse tutti gli avvocati. Aspetta, c'è il traffico e poi torniamo sugli altri aspetti. Vedo che ti stai accalorando, come sempre, ci piace. A tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta... Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta agli ultimi minuti di tempo con Nicola Borsi, Plus 24, Il Sole 24 Ore, l'avvocato Letizia Vescovini. Stiamo rifacendo un punto, ma non sarà sufficiente perché dovremo farne presumibilmente ancora altri a breve su Monte dei Paschi, dopo che l'Italia ha ottenuto il via libera da parte di Bruxelles sulla cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale. Peraltro, quanti soldi ha intenzione, Nicola, di iniettare lo Stato con questa con questo via libera all'operazione? Dovrebbe coprire circa 6,6 miliardi degli 8,8 miliardi previsti dal piano. La questione qual è? La questione è che si spera che nel frattempo non emergano o dalla cessione degli NPL o dai bilanci della banca ulteriori perdite, perché in questo caso si ricadrebbe nella situazione delle venete, cioè se ci sono delle perdite pregresse rispetto al piano che è stato in qualche modo già definito, lo Stato non può intervenire. A quel punto dovrebbero intervenire nuovamente i privati, così come è successo per le venete. Certo. I depositanti, i correntisti di Banca Monte dei Paschi in questo momento, ecco. Gli obbligazionisti senior, o diciamo quelli che hanno in mano obbligazioni tra virgolette non subordinate, stanno tranquilli. La questione riguarda gli azionisti e i detentori di subordinate. Quali subordinate riceviamo? Ecco, perché abbiamo anche voi, esatto, questa mail di Angelo che ci scrive: voglio chiedervi cosa succederà alla mia obbligazione 5, non so cosa voglia dire, maggio. 2020. Ah, ecco, maggio 2020, scusami, subordinata, sono un privato. Ma Nicola ci diceva a microfoni spenti, secondo me quella era destinata a investitori istituzionali. Era destinata a investitori istituzionali. Oltretutto, qui c'è una questione, magari poi ne parlerà l'avvocato Vescovini, di profilatura MiFID, cioè come si fanno a vendere a investitori retail che hanno competenze limitate, titoli per istituzionali che quindi hanno un grado di complessità elevato. Ma poi c'è un'altra questione. La Procura di Milano ha ribaltato diciamo la decisione di non rinviare a giudizio gli ex vertici della banca Profumo e Viola, perché c'è la questione della rappresentazione in bilancio dei derivati Alexandre Santorini. Secondo la Procura di Milano è stata fatta una non corretta rappresentazione in bilancio di questi derivati, che per qualche motivo sono stati costantemente rappresentati come se fossero i BTP che avrebbero dovuto essere. Tutti gli aumenti di capitale che sono stati portati avanti nel periodo in cui questa rappresentazione di bilancio non è stata corretta, come li consideriamo? Le persone che hanno aderito a questi aumenti di capitale sono persone che hanno avuto anche in questo caso un mis-selling oppure certo. No? E qui parliamo anche di dipendenti. Io ricordo, vorrei dirlo, che ci sono state migliaia e migliaia di dipendenti di MPS che sulla base di una sollecitazione della banca hanno aderito agli aumenti di capitale trasformando in azioni che poi sono andate con un valore che è rimasto all'1% dell'originario attraverso il loro TFR. Sì. Cioè parliamo di una quantità di danni spaventosa. Cosa che riguarda anche gli obbligazionisti delle quattro banche risolte e quant'altro. Allora, avvocato Vescovini, come facciamo, ammettendo di essere un obbligazionista a Monte dei Paschi, scopro di correre il rischio di essere un subordinato, come faccio ad andare dal prospetto dell'investimento che ho effettuato a capire se mi hanno un po' taroccato, forzato la mia profilatura? Magari avevo detto chiaramente alla banca che ero un investitore che non si voleva prendere dei rischi, la banca, lo sportello al quale mi sono rivolta in quel momento mi ha detto: ma stai tranquilla che ti do questa obbligazione quasi uguale come rischio ad un titolo di Stato, a un conto di deposito, non so che cosa, e invece scopro oggi con queste novità che era un prodotto riservato ad una platea di investitori istituzionali, quindi in grado di sopportare rischi ben superiori ai miei. Dove vado a leggere? Allora, la MiFID taroccata può essere smontata facendo un confronto con le precedenti profilature. Prima dell'introduzione della MiFID, che è avvenuta nel 2007, c'era già un regolamento Consob che prevedeva all'articolo 28 la necessità che prima dell'investimento venissero raccolte le informazioni dagli investitori, proprio per poter offrire loro solo dei prodotti che fossero in linea con quella tipologia di cliente. Quindi facendo un confronto tra quello che si era prima della proposta dell'obbligazione subordinata e quello che si era dopo nel prospetto taroccato, già lì si riesce a dimostrare che probabilmente qualche cosa di non corretto è emerso. Poi tante volte riguardando le domande che compongono il questionario MiFID risultano degli errori abbastanza grossolani, ad esempio spesso per far risultare un soggetto con un livello di rischio più alto viene dichiarato un patrimonio disponibile per gli investimenti più alto rispetto al reale, e questo lo si può dimostrare ad esempio producendo gli estratti del deposito titoli o del conto corrente, oppure viene dichiarato un livello di istruzione più elevato, il fatto che si investa più spesso di quello che effettivamente ci sono accaduto. Punti che siamo in grado di capire benissimo, anche se magari, che ne so, il resto del questionario è più complicato da decifrare e interpretare, ma almeno su questi punti molto personali siamo in grado di capire se qualcuno ha come dire, messo mano al questionario al posto nostro. No, avvocato, diciamo che il fatto che non si riesca a capire la domanda che ti è stata proposta e che per quella venga data una risposta affermativa, da lì potrebbe portare a far capire che qualcosa di non reale è accaduto. Inoltre consiglio sempre di ottenere anche gli estratti titoli del periodo precedente rispetto alla sottoscrizione dell'obbligazione subordinata. Vi fermo un attimo, avvocato Vescovini, perché mi mancano due minuti. Siccome Nicola sta raccogliendo del materiale prezioso che pubblicherà su Plus 24, esatto, di sabato, immagino, ti faccio mettere anche l'esperienza di Marcello da Firenze. Marcello, benvenuto, velocissimo, grazie. Buongiorno, sì, senta, a me mi sono state vendute, a me e Babbo, che oggi ha 96 anni, Babbo, è allettato col femore rotto, queste subordinate, ci è stato detto, vendute quando erano già in essere, 3 o 4 anni fa. Oggi io non sapevo di questa situazione, sono venuto a conoscenza come tanti dopo. Come faccio io a dimostrare che mi sono state vendute un po' in questo modo? Perché ho letto che saranno rimborsate, chi può dimostrarlo? Come faccio io a dimostrare questo? Ci vuole un avvocato. Immagino di sì, Marcello. Allora, sì. Buongiorno, io credo che la situazione sia diversa da quella del collocamento, ovviamente, perché lei le ha acquistate probabilmente da un altro soggetto o attraverso un sistema di scambi interni alla banca, che era quello che veniva utilizzato, perché queste obbligazioni peraltro non erano quotate su mercati regolamentati ma soltanto su un internalizzatore sistematico di MPS. Io credo che lei debba fornirsi di tutta la documentazione, questa è una questione fondamentale. Esatto, intanto Marcello veramente butti per aria tutte le carte. Tutta la documentazione, soprattutto sulla profilatura MiFID. Tra l'altro segnalo che siccome queste obbligazioni sono state collocate inizialmente nel 2008, la banca ha il dovere di mantenere la documentazione solo per 10 anni. Quindi tra pochi mesi potrebbero cominciare a scadere i vincoli della banca di conservazione dei documenti. È bene che tutti gli ascoltatori che hanno queste obbligazioni si rechino subito chiedendo immediatamente copia di tutta la documentazione relativa alla propria profilatura. Segnalo un'altra cosa, segnalo che nel 2015, questo è un documento che pubblicheremo su Plus di sabato, che dedicherà 4 pagine di copertina a questo tema, nel 2015... Di copertina. Sì, riapriremo l'iniziativa Filo Diretto con i lettori, per cui potrete scriverci mail o mandarci le vostre lettere come avevamo già iniziato a fare tra dicembre e gennaio. La banca aveva iniziato dal 2015 a mandare comunicazioni periodiche ai sottoscrittori di questi bond segnalando il livello di rischio, e nel 2015 in agosto l'aveva cambiato da livello di rischio medio-basso a livello di rischio intermedio. In corsa. Tutte queste comunicazioni sono fondamentali. Certo. Allora ti farò mettere anche nella lista degli ascoltatori che ti scrivono, visto che non riusciamo a sentirlo. Grazie. Gaetano dalla provincia di Napoli, in realtà un pacchetto azioni MPS, ha sentito che si azzerano, come dicevo, è possibile. Gaetano, non lo sappiamo ancora, probabilmente entro fine giugno forse la società verrà riammessa alle contrattazioni a Piazza Affari, ma presumibilmente con valori molto diversi rispetto a quelli a cui le avete sottoscritte. Per tutto il resto scriveteci, noi ci faremo aiutare dall'avvocato Letizia Vescovini, però insomma ancora il momento non è idoneo per dare una soluzione a tutti, ci ritorneremo su questo argomento al più presto. Grazie a Nicola Borsi e Letizia Vescovini. Grazie. Nicoletta, buona giornata, buon pomeriggio, torniamo domani. Buona giornata a tutti.